provato a non amarti, è impossibile per me. Chiedi tempo per pensarci, ma perché? Ho provato a non cercarti, ma so sempre dove sei. E mi costa non chiamarti, e tu lo sai. Dici che devi star sola, se un dubbio c'è, che vuoi risolverlo da te. E non hai capito niente di me. Ci sei tu e io mi illumino, mi agito quando non ci sei. Ma tu non vedi niente, pensi ad altro ormai, e lo sai. Vieni a prenderti i vestiti, li hai lasciati in mezzo ai miei. Ma ogni volta vedo, penso a noi, penso a te, nuda o vestita, ripenso a te, grande infinita come Dio, quando il tuo mondo era anche il mio, yeah. Ci sei tu e io mi illumino, mi agito quando non ci sei, ma tu non vedi. Ci sei tu e io mi illumino, logico che ti rivolrei. Se t'amo forse perdo, se non ti amo però non vinco mai. Dici esci con